Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Finalmente buongiorno, sono le 11.08 e finalmente venerdì, perché qui davanti a me sorridente il dottor Franco Confalonieri, quasi una garanzia, dottor Confalonieri. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Saluto anche in regia Giorgio Mattei, in redazione Laura Vanossi, i titoli del nostro sommario. Un weekend a tutto sport. Quarta giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma. Paola Turci, una voce per l'Abruzzo. Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Dalle 6 alle 7 ante lucane. Tutte le altre ore, man mano che si avvicinava al mezzogiorno, erano già occupate da giocatori di casta sempre più elevata. Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent. Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia. Piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza! Fantozzi abbandonò l'idea dello sport, ma non la decisione di dimagrire. Avete fatto un regalo oggi iniziando con Fantozzi. Vero? Uno perché dei miei grandi amori, i film di Fantozzi. Ci riconosciamo tutti in lui. Io un po' nell'ambito sportivo alcune volte mi sono riconosciuto. Sì. Chissà se si sono riconosciuti o si riconoscono anche i nostri amici da casa, che invitiamo già subito a chiamarci all'800 24 00 24. C'è un po' di Fantozzi in tutti noi, soprattutto e anche quando scendiamo in campo, vogliamo fare attività sportiva e specie se decidiamo o possiamo muoverci solo nel fine settimana. Infatti il titolo del nostro sommario è Un weekend a tutto sport. Per alcuni è un'abitudine, cioè nel fine settimana si concentrano anche le attività sportive che si sono già praticate durante la settimana, per altri è solo il weekend il momento in cui si tiene un po' in allenamento il fisico. Dottor Confalonieri, tanti profili, c'è anche chi invece magari si allena tutta la settimana e durante il weekend riduce perché si dedica alla famiglia o ad attività diverse. Ma noi oggi vorremmo concentrarci soprattutto su coloro che, non potendo fare sport durante la settimana, avendo tempo libero soltanto durante il weekend e amando lo sport oppure sentendone la necessità per la salute, fanno un po' come Fantozzi e vanno a giocare a tennis la domenica mattina piuttosto che vanno in bicicletta soltanto il sabato. Capire se lo fanno, perché lo fanno, se sono contenti, se hanno dei problemi, se hanno cominciato la domenica e poi si sono inventati degli spazi durante la settimana. Insomma, ci vorremmo che ci raccontassero un po' le loro esperienze di sportivi del weekend. Apriremo anche a una fascia di nostri ascoltatori che durante tutto l'anno, per una serie di ragioni, non possono praticare attività sportiva e stanno facendo il conto alla rovescia per le vacanze. Quest'anno sappiamo le vacanze saranno proprio caratterizzate dal mordi e fuggi, magari vacanze breve in cui si concentra tutta l'attività sportiva che non si è riuscita a praticare durante l'anno, e qui si apre un nuovo scenario, dottor Confalonieri. Sì, perché apparentemente le problematiche sono le stesse, cioè faccio lo sport in modo saltuario soltanto quando la mia vita professionale me lo consente, ma invece la differenza è profondissima, perché mentre lo sportivo della domenica ha continuità nella sua attività, per quanto rarefatta, per quanto una volta alla settimana, rispetta uno dei concetti fondamentali della teoria dell'allenamento, cioè quello della continuità, chi concentra l'attività sportiva soltanto durante la settimana di vacanza fa invece un errore molto grave. Intanto perché non c'è continuità, e in secondo luogo perché tenta il più delle volte di fare attività tutti i giorni e quindi anche il carico totale diventa eccessivo e provoca nella gran parte dei casi più danni che benefici. Quindi siamo pronti ad ascoltare anche coloro che fanno questo tipo di scelta e che ci raccontino com'è andata, se è andata maluccio, benino, come ho detto io, se invece è andata bene, così che mi contraddicono e magari impariamo da loro. 800 24 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso parliamo di una giornata importante. Si terrà il primo giorno d'estate, è la quarta giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e i mielomi promossi dall'AIL. E in linea con noi abbiamo il professor Mandelli, professore di ematologia alla Sapienza di Roma e presidente dell'AIL. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, quest'anno la giornata è dedicata al tema della qualità della vita e l'obiettivo è chiaro, è quello di dare voce al paziente ematologico per capire proprio le sue difficoltà, le difficoltà causate dalla convivenza anche duratura con la patologia e soprattutto quindi offrire delle risposte più concrete ai suoi bisogni. Sì. Che cosa si sta facendo, professore? Tanti traguardi sono stati raggiunti, ma proprio approfitto di lei per mandare un messaggio ai nostri ascoltatori. Io credo che il messaggio è una novità che mi fa veramente venire i brividi dalla gioia, perché una particolare varietà di leucemia acuta linfatica, che era fra le peggiori, oggi grazie a una nuova terapia con un protocollo che è stato fra i primi utilizzato dagli italiani, è talmente curabile, non dico guaribile, curabile, che speriamo che si tratti di quella varietà e non di altre nel campo di quella leucemia acuta. Progressi a piccoli passi, ma che sono progressi incredibili secondo me, perché una vita in più salvata è un risultato già formidabile. Questo protocollo ne salviamo parecchie all'anno, al mese addirittura. E professore, questi risultati sono resi possibili proprio grazie alla costante attività di ricercatori, anche all'impegno di informazione, sensibilizzazione e sostegno delle associazioni che operano proprio in questo ambito. Io ricordo sempre che quando ci siamo incontrati e lei mi ha detto: quando io ero un giovane medico ho iniziato a occuparmi di leucemie si moriva. Adesso, professore, guardi quanta strada è stata fatta. È stato un miracolo, secondo me, realizzato con l'impegno di tutti, anche dei volontari dell'AI, anche delle associazioni come l'AI e di tantissimi medici, infermieri che in tutti i centri ematologici d'Italia, dall'estremo nord all'estremo sud, questo è molto importante, consentono al malato di ricevere i migliori trattamenti non d'Europa, del mondo. Del mondo. Ricordiamo, professor Mandelli, che per tutta la giornata di martedì prossimo, martedì 23 giugno, ci saranno a disposizione 8 illustri ematologi italiani per rispondere alle domande dei cittadini. È stato attivato un numero verde, professor Mandelli, lo ricordo, 822 65 24, lo metteremo anche nell'home page di Essere Benessere, quindi ancora un'occasione in più per sapere dove sta andando la ricerca e quali risultati ha raggiunto. Professor Mandelli, grazie per essere grazie stato con noi, grazie per il vostro impegno, buona ricerca, buona giornata. Grazie mille. Pronto soccorso. Torniamo ad occuparci del tema del giorno. Oggi vogliamo sapere come state come vi state organizzando per il vostro weekend, se siete degli sportivi, quale attività sportiva pensate di praticare, che risultati ottenete. Ma dottor Confalonieri, iniziamo proprio da una domanda basic: quali sono i vantaggi di fare attività sportiva nel weekend invece che rimanere belli spaparanzati a casa, oppure fare una passeggiatina, andare per negozi, godersi la famiglia, fare due chiacchiere con gli amici? Beh, cioè una cosa non esclude l'altra. Esatto, questo è il primo vantaggio, che durante il weekend mediamente c'è il tempo per cui una cosa non escluda l'altra. Il secondo è il vantaggio cui accennavo prima: lo sport fatto regolarmente comunque produce effetti positivi, quindi c'è una sua regolarità, c'è una sua continuità anche in un'attività fatta soltanto ogni 7 giorni, e va molto bene. Questa continuità ci consente inoltre di incrementare, con quel concetto di gradualità che mi è così caro, di incrementare nel tempo il carico allenante in modo che sia sempre efficace. Faccio un esempio, uno dei più classici: uno sceglie la bicicletta. All'inizio della stagione uscirà magari 45-60 minuti con una velocità media di 20 km orari. Al termine sarà magari in grado di uscire per 2 ore, 2 ore e mezza con una velocità media di 30-35 km all'ora e sarà sicuramente una persona molto più sana. Direi che questo concetto si applica soprattutto agli sport individuali, agli sport di tipo aerobico, che sono forse i più adatti a questa pratica non continuativa, a questa pratica del weekend. Senta, dottor Confalonieri, Fantozzi andava a giocare a tennis, no? Sì. Bello, vestito in modo improbabile. Ecco, ma ci sono delle attività sportive più indicate di altri? Cioè, meglio il tennis alla Fantozzi oppure no? Il calcetto, la nuotata, la passeggiata, la mountain bike? Che si fa, insomma? Anche perché mi piacerebbe che i nostri ascoltatori potessero chiamarci all'824 0024 e dire: guardi, dottor Confalonieri, faccio poco durante la settimana, anzi pochissimo, decido di andare questo fine settimana in montagna, che cosa posso fare? Quindi mi piacerebbe che lei proprio costruisse un programma di allenamento, sì, per il weekend, per i nostri ascoltatori che lo desiderano. Quindi sport più vantaggiosi di altri, più indicati di altri, quali? Allora, la premessa è che lo sport in assoluto più vantaggioso e più adeguato è quello che ci divertiamo di più a fare. Sembra una banalità, ma non è una banalità, nel senso che il fatto di divertirci garantisce la continuità. Se io faccio qualcosa che non mi diverte, difficilmente il weekend dopo lo farò ancora e quindi non avrò nessun effetto positivo. Da questo punto di vista, quindi, per qualcuno l'ideale potrebbe essere fare del calcetto o giocare a tennis o fare qualcosa che non è adattissimo da un punto di vista fisiologico, perché è uno sforzo intenso, poco definibile, poco incrementabile, però se è divertente ci fa comunque bene. Quindi, perché lo proseguiamo, privilegiare il piacere, il divertimento, questo è il primo criterio di non scelta, non perché siamo dei godereccioni, no, ma per garantirci una continuità. Secondo criterio di scelta invece, se amiamo comunque l'esercizio fisico, allora scegliamo un'attività aerobica, un'attività che possiamo fare a lungo nel tempo, il trekking, la bicicletta, se siamo abili nuotatori il nuoto, eventualmente la barca, perché questo ci consentirà di incrementare il lavoro durante l'anno e soprattutto il lavoro avrà un grosso effetto a livello dell'apparato cardiovascolare. E infine sono minori i rischi di infortunio, di incidente, che è il grosso allarme per lo sport praticato saltuariamente. Non sono allenato, non sono preparato, sono sfatto da una settimana di lavoro, mi metto a giocare a calcetto, mi rompo. Non ha citato la canoa, che invece l'ho citata, l'ho citata. No, sì. Ero rimasta colpita da questa bicicletta con alla milanese. Franco, dalla provincia di Massa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Franco, come dice lei bicicletta? Glielo dica un po'. No, io non ci vado ancora in bici, però volevo chiedere al dottor Compagno dell'appunto, siccome ho 52 anni, ho fatto delle analisi, ho fatto l'ecodopio e la cura, tutto a posto. Ho una lineetta di pressione alta, prendo una mezza pastiglia la mattina, e volevo iniziare proprio l'attività di andare in bici, però non ho tanto tempo, perché lavoro tutto il giorno, finisco tardi e così. Però volevo andare, cioè già cominciare ad andare la mattina e tornare la sera in bici. Volevo sapere più o meno il tempo che ci vuole intanto per iniziare, per non farmi del male. Sì. Allora, Franco in bici sa andare, quindi già... Perché... Sì, ma quanto ci vuole per andare a lavorare in bici e tornare quindi in bici? Qual è la distanza? La distanza è pochissima, saranno 4 km ad andare e 4 a tornare, solo che 4 sono in discesa la mattina, 4 sono in salita. Allora la vedo dura. No, va benissimo, la bici si può anche tenere per mano, no? No, ma va bene, ecco. Allora direi, questa è una scelta comunque intelligente, innanzitutto perché la bicicletta, in quanto sport che riduce di fatto la pressione arteriosa, sicuramente avrà un effetto positivo sulla salute di Franco. In secondo luogo, lui la inserisce nella sua organizzazione della vita e 4 chilometri sono effettivamente pochi. Tra l'altro il lavoro è poco intenso al mattino, una sorta di riscaldamento perché andiamo in discesa, è un po' più intenso al pomeriggio, fa anche un po' di forza, non è male. Io gli consiglierei magari di non farlo tutti i giorni inizialmente. Cominci 2 volte a settimana, poi passa 4, poi tutti i giorni. E poi quando ci avrà provato gusto, qualche volta può inserirci anche il weekend con delle uscite un pochino più lunghe di 4 km. Andiamo a Lucca, ci aspetta Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno dottore, buongiorno a tutti. Ascolti, volevo fare una domanda legata al riposo nell'attività fisica. Facendo attività fisica quasi 5 giorni su 7, nuoto, calcio, bici, è molto importante recuperare? E un'altra domanda, se è giusto farla anche quando ci sentiamo un po' scarichi, un po' stanchi, ecco, tutto qui. Grazie, grazie Matteo, che ha toccato un tema al dottor Confalonieri carissimo, perché il dottor Confalonieri è un accanito sostenitore del riposo, cioè bisogna dell'attività fisica, è giusta, ma è giusto soprattutto anche avere uno stacco. Questo è proprio quasi terapeutico, dottor Confalonieri, è vero? Mi ha tolto le parole di bocca. Ma ormai imparo. Assolutamente, ecco, la scelta del riposo è di fondamentale importanza, quindi direi che almeno 2 giorni alla settimana su 7 dovrebbero essere dedicati al riposo o a un 20 minuti, mezz'ora assolutamente defaticanti. Questo per chiunque, soprattutto per chi fa una monoattività. Il nostro amico ascoltatore alternava diverse attività, in questo caso il rischio di sovraccarico è un po' minore, soprattutto a livello muscolare, non tanto organico, però anche per lui i 2 giorni di riposo settimanale sono consigliati, soprattutto se, come ci diceva, avverto ogni tanto questa sensazione di stanchezza, di fatica e quindi di ridotta voglia di andare ad allenarsi. Di fronte a questi segnali, soprattutto se siamo sportivi amatoriali, fermiamoci. Ricordiamoci che se un allenamento è strutturato bene, la giornata di riposo è la più allenante di tutti, perché è la giornata che ci consente di assorbire tutti gli stimoli che abbiamo dato al nostro organismo e quindi di migliorare il nostro livello di efficienza. Il riposo è un grandissimo allenamento. Vediamo allora se che cosa ci racconta Walter da Milano. Walter, buongiorno. Ah, buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Volevo chiedere, preferisco, come dire, sport da camera, in casa. Infatti ho una cyclette e vari pesi e cose di questo genere e ho un piccolo problema con la glicemia. Cosa mi consiglia il dottore? Quindi, in pratica, scusi Walter, un'attività fisica che riesca ad abbassare la glicemia? È questa sì, la esatto, domanda? Preferibilmente però senza uscire. Allora, sempre, beh, è vero che il dottor Confalonieri Walter riesce a rispondere anche ai casi difficili, ma lo mette veramente in difficoltà. Vediamo se ce la fa anche questa volta. Dottor Confalonieri, io so che lei ce la farà. Allora, diciamo che l'attività fisica è fondamentale soprattutto per stabilizzare i livelli di glicemia e quindi è estremamente raccomandata, per esempio, anche in tutti i pazienti diabetici. Indubbiamente gli sport in cui c'è un consumo energetico e quindi un consumo di zuccheri elevato e continuativo sono i più adatti. In casa è difficile fare di questi sport, probabilmente l'ideale è fare o della cyclette o correre su un tappeto o utilizzare un remergometro. Perché parlo del remergometro? Perché col remergometro, anche casalingo, noi riusciamo ad abbassare la glicemia e al contempo ad utilizzare sia la muscolatura superiore sia la muscolatura inferiore. Allora adesso sentiamo come trascorre il weekend un grande atleta. In linea con noi abbiamo un nuotatore a 5 stelle, Massimiliano Rosolino, finalmente siamo riusciti a raggiungerlo. Ciao Massimiliano e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Scusa, dico finalmente perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma con Laura Vanossi abbiamo più volte cercato di acchiapparti, ma tu è sei vero, sempre mia colpa, vero, mia colpa, in piscina, in nuoti. Ti ho dato un appuntamento telefonico e praticamente dopo 10 minuti mi sono accorto che mi ero dimenticato. Ecco, vedi a stare sempre in acqua che cosa succede. Sì. Lo so. Senti Massimiliano, voglio chiederti una cosa. Ma tu di domenica ti riposi oppure invece ti alleni sempre comunque? Ma sai, bella domanda. Devo dire che ultimamente, nelle ultime 3-4 settimane, la domenica comunque io faccio tutto quello che voglio fare durante il giorno e poi arrivo alle 5:30-6 e vado a farmi 700-800 metri piano, va bene? Perché anche se durante la settimana faccio fin troppo, cioè non sì, fin troppo, basta e avanza, comunque quei 20 minuti che passo la domenica così per rilassarmi mi fanno sentire meglio. Non so se è una questione di coscienza, però alla fine veramente mi sento meglio. Se sono andato a fare un giro, fa così caldo che un bagnetto in piscina, poi una bella doccia magari un po' più fredda, mi sento meglio veramente alla fine. Quindi non ne puoi quasi fare a meno. È vero, questo almeno nella stagione estiva, adesso che siamo ricchi di appuntamenti. Poi una domenica normale magari in inverno, anzi uno cerca proprio neanche di guardare l'acqua, questa è la verità. Tu giri dall'altra parte, come fanno sì, i bambini quando sì, hanno paura dell'acqua, quando anzi, hanno paura del mare. Odio quando vedo di tutti quelli della domenica che nuotano, faccio, poi chi ve lo fa fare la domenica? Senti, però non c'è solamente chi nuota, c'è anche chi si arrampica, chi prende la mountain bike, chi si mette a correre. Ma io sono comunque d'accordo, ben venga, io lo capisco benissimo, perché purtroppo con i ritmi frenetici che ci sono al giorno d'oggi, la persona, chiamiamola normale, ma in effetti è magari uno sportivo doc pure lui, durante la settimana fa più fatica a trovare magari gli orari giusti, il tempo libero e le energie, perché loro alla fine non deve andare in palestra a guardare il tempo che passa. E invece magari la domenica mattina presto, magari durante la giornata, c'è gente che appunto va a fare, non so, mountain bike, free climbing, di tutto e di più, insomma. Senti, ma che cosa non riusciresti assolutamente a fare di domenica? E nessuno potrebbe convincerti a farlo? Ma guarda, non ci sono limiti, veramente non ci sono limiti. Per me la domenica, veramente, spesso non dico perdere di tempo, mai, perché la domenica è santa, io conto la settimana, non vedo l'ora che arrivi. Però forse il giorno che preferisco è il sabato pomeriggio, come andare a scuola, no? Uguale, uguale anche per me. La domenica già arriva l'odore del lunedì dove bisogna lavorare e riattaccare ad allenarsi, però in effetti lo aspetto anche con ansia, perché alla fine ho la fortuna di fare una cosa che mi piace molto. Insomma, domani sabato pomeriggio è qua, tra poco, quindi sì, ti penseremo. Massimiliano, grazie per essere stato con noi, finalmente ti abbiamo acchiappato e torneremo ad acchiapparti nuovamente. Vabbè, ti aspetto, almeno per gli interessi, è una colpa mia. Buona giornata, grazie. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Eccoci, siamo tornati insieme. Voglio subito leggerle un messaggio, dottor Confalonieri, perché secondo me è molto utile. Sono un ciclista della domenica. Vorrei chiedere se allenarsi a casa col ciclosimulatore può essere un'alternativa valida. Sì, più che un'alternativa, un'integrazione valida. Quindi sicuramente il sabato e la domenica continuiamo a uscire in bicicletta, perché è più utile, oltre ad essere molto più piacevole. Però durante la settimana fare 30-45 minuti sul ciclosimulatore può completare gli effetti benefici del lavoro della domenica, e poi ci consente di divertirci di più e di essere un pochettino più performanti e prestativi la domenica. Quindi è un'ottima integrazione, non un'alternativa. Voglio dire, la domenica di brutto tempo rinunciamo, non mettiamoci magari a fare un'ora e mezzo, due sul ciclosimulatore, che diventa alienante. Senta, ma questo ciclosimulatore potremmo consigliarlo a Thomas da Bassano del Grappa, ci arrivo, lui ci scrive: Confalonieri, ha una soluzione anche per mia moglie non sportiva che brontola perché pratico troppo sport? Un caloroso saluto. Ma sì, diciamo che il ciclosimulatore o tutte quelle macchine per l'home fitness potrebbero essere una soluzione, anche se secondo me è un grosso rischio. Questa è la mia esperienza con tante persone che ho seguito. Il giorno che cominciano a stare a casa tanto, la moglie rimpiange il tempo dello sport e spesso si mette lei a fare sport per uscire, lasciando a quel punto il marito a casa. Quindi meglio farsi desiderare. Sì, Thomas. Sì, sì. Andiamo a Pescara, ci chiama Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti a lei e al dottor Confalonieri, poi una piccola contestazione a Fantozzi, perché nella mia esperienza è il contrario, cioè di solito quelli meglio abbigliati sono i più scarsi. Vero, e... però è nel personaggio di Fantozzi. Sì, no, ma infatti era solo scherzosamente, voglio certo. dire, no, è chiaro che... però di solito è così, no? È il contrario, chi è meglio abbigliato è il più scarso. Veniamo invece al fatto importante della gradualità di cui parla il dottor Confalonieri, perché io interpreto sempre questo il motto sport e salute, nel senso che ci vuole molta salute per farlo, no? Sì. E invece siccome conosco molti miei amici che sono, io li chiamo malati volontari, no? Perché? Perché con la voglia di strafare poi chi c'ha un ginocchio. Io volevo chiedere al dottor Confalonieri, soprattutto quando si supera una certa età, diciamo i 60 anni, a quali test e con quale periodicità bisogna sottoporsi per essere tranquilli e per poter incrementare l'attività che si fa? Per non diventare un malato volontario. Grazie Salvatore. Questa dottor Confalonieri. Un'ottima domanda, erano molto interessanti anche le diverse considerazioni che ha fatto Salvatore sui malati volontari e sullo sport e salute. Sono, direi, al 90% d'accordo con lui. Allora, direi una volta all'anno può bastare per avere una relativa sicurezza nello sport che facciamo. Sicuramente dobbiamo fare una valutazione della funzionalità dell'apparato cardiovascolare, del muscolo cardiaco in particolare, e questa la fanno quasi tutti. Però dobbiamo certamente fare anche una valutazione dei fattori di rischio a livello ortopedico, quindi caviglia, ginocchio, anche schiena, vedere se ci sono dei fattori che predispongono l'insorgere di una patologia da sovraccarico, soprattutto legata allo sport che pratichiamo. E poi fare lo sport in funzione dei risultati che otteniamo con queste valutazioni. Quindi la facciamo e poi adeguiamo il carico a quelle che sono le nostre caratteristiche. In questo modo lo sport davvero diventerà salute e non ci creerà dei malati più o meno volontari. Elena ci chiama dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Senta, io adesso tra tanti sportivi farò invece una domanda un po' sciocca. Io ho avuto una bambina da un mese e chiaramente mi sono rimasti addosso qualche, insomma, un po' di chiletti. È normale, Elena. È normale, io sono contenta. Come si chiama la sua bambina? La bambina si chiama Cecilia. Bel nome. Sì. Ed è brava, dorme? Ah, una meraviglia. Magnifico. No, no. Poi la terza, insomma, ci la sono terza, abituata. Ormai lei è una mamma super. Va bene, quindi qualche chiletto, qualche poco chiletto. Tempo, perché le mamme hanno poco sì, tempo. Poco tempo e oltretutto, insomma, si approssimano le vacanze, quindi... La prova a costume, il fatto di andare al mare. E volevo qualche informazione su queste pedane vibranti, mm-hmm. di cui alcune persone che conosco decantano degli effetti formidabili in pochissimo tempo. Sì. Volevo sapere se sono efficaci, mm-hmm. se hanno qualche controindicazione e se aiutano per la prova del costume. Intanto Elena la ringrazio per la sua chiamata, perché così possiamo rispondere anche a questa, che è una domanda abbastanza ricorrente. Se ne parla molto delle pedane vibranti. Auguri Elena. Auguri per una buona estate con questi tre bambini. Ma direi che le pedane vibranti possono essere utili in termini di tonificazione muscolare, soprattutto ovviamente degli arti inferiori, e anche di stimolo a quella che può essere tutta la circolazione ematica e linfatica e degli arti inferiori, quindi da questo punto di vista possono indirettamente favorire un dimagramento. Non sono certamente un'attività specifica per dimagrire, in quanto il consumo calorico è comunque relativamente contenuto e noi dimagriamo molto banalmente quando consumiamo di più di quello che introduciamo. Quindi da questo punto di vista altre attività, la camminata, la corsa, il nuoto, la bici, sempre le stesse, o la ginnastica fatta in un certo modo, ci consentono di consumare di più e quindi di dimagrire maggiormente. In termini di controindicazioni, sicuramente ci sono delle sollecitazioni importanti delle articolazioni e in particolare della colonna, e quindi prima di utilizzarle bisognerebbe fare una visita specialistica per essere certi che con le pedane non si scatenano delle patologie che sono magari lì silenti e che potrebbero complicarsi gravemente con questo attrezzo. Andiamo nella provincia di Salerno, ci aspetta Rolando. Buongiorno Rolando. Buongiorno a tutti. Mi stavo impaperando. Pronto? Sì, siamo qua. Ci racconti. Sì, sì. Io vengo seguito in realtà da un personal trainer che poi da aprile ho dovuto un attimo abbandonare in quanto ho dovuto organizzare il mio matrimonio. Però, quando si sposa Rolando? L'11 luglio, oramai siamo prossimi. Vicino vicino, dottor Gonfalonieri. Auguri. Auguri, non lo so. Grazie. Il problema che sollevavo, che per il quale spero di poter avere una risposta, è che io soffro di due ernie alla schiena. Allora mi ha detto il personal trainer non fare la corsa, non andare in bicicletta. Nuoto potresti solo raccaricare la schiena, ma insomma io per arrivare un po' più tonificato oramai al matrimonio, ma comunque per aspettare mentre che aspetto ottobre che quando ritornerò in palestra, cosa posso fare? Certo, oltre a sposarsi, anche perché se il personal trainer parla con la sua futura moglie non lo sposa più. Dottor Confalonieri. Ma mi sembra un po' troppo radicale questo allenatore, nel senso che è vero, la corsa tenderei a escluderla anch'io, la bicicletta no, con una posizione corretta in bicicletta tutto sommato si può fare, ovviamente non della mountain bike, della bici da strada su percorsi adeguati, secondo me si può fare, il nuoto certamente si può fare, andiamola con nuoto, un minimo di attenzione alle virate e alla rana, ma il nuoto a stile libero a dorso, se la tecnica è corretta, se la tecnica non è corretta si rischia di avere un po' di sovraccarico a livello della schiena, però si può fare, se no si può fare comunque anche a casa, anche senza il personal trainer, della ginnastica che serve a mantenere un tono adeguato a presentarsi all'altare in modo degno, insomma. Andiamo a Piacenza, ci aspetta Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Sì, forse deve, Giorgio Mattei mi dice di abbassare la radio, Antonio. Sì, ecco, la spengo. Poi la riaccenda però, poi Antonio. Mi raccomando, io ho sempre il terrore quando dite spengo la radio. Tenetela semmai bassa. Antonio, certo. Dottor Confalonieri è pronto per lei. Allora, dottore, volevo chiederle una cosa. Io mi alleno 3 volte alla settimana, faccio la corsa, ho 43 anni. Capita molto spesso che per lavoro, per 2 o 3 settimane, non riesco più a correre. La gradualità, ecco, mi può dare qualche consiglio per riprendere la corsa dopo queste 3 settimane? Antonio, ecco. E poi un'altra cosa. Sì. I benefici cardiovascolari che si acquisiscono con la corsa sono sufficienti 3 volte alla settimana? Grazie. Allora, è una bella domanda quella di Antonio, perché poi ci sono degli impegni. Noi iniziamo a fare un'attività sportiva, la inseriamo perfettamente, poi gli impegni ci mettono il bastone nelle ruote e per 10-15 giorni non riusciamo più. Il nostro consiglio di lettura, poi la risposta da Antonio. Dottor Confalonieri, lei è pronto? Ci ha pensato? Per fortuna ho avuto il tempo, sì. Ok. Bene, oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa un libro, secondo me molto interessante, Il sole sulla pelle, fonte di benessere e di bellezza. Se volete ricevere questo libro a casa, dovete essere il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, Il sole sulla pelle, recapiti e numero di telefono. E vi anticipo che di sole parleremo proprio nella puntata di lunedì, quindi segnatevelo se volete già scrivere, se il sole ha degli effetti particolari sulla vostra pelle, se volete guadagnarvi una abbronzatura in tutta sicurezza, la puntata di lunedì è dedicata a voi. In collaborazione con IBS.it. E invece, caro il mio dottor Confalonieri, è arrivato il suo momento per rispondere ad Antonio. Chi fa sport deve poi interromperlo. Cosa fa poi? Io direi innanzitutto che benefici a livello cardiovascolare generale, correndo 3 volte a settimana, basta e avanza, cioè ci sono sicuramente e quindi l'attività è valida. Se l'interruzione è di 1 settimana, 15 giorni, non compromette più di tanto i livelli raggiunti, quindi si può ricominciare più o meno da dove si era arrivati, riprendere con la stessa tipologia di allenamento e non preoccuparsi più di tanto. Se l'interruzione si prolunga oltre i 15 giorni, invece sarebbe utile magari provare a utilizzare, guarda caso, proprio lo spazio weekend di cui abbiamo parlato oggi per fare un allenamento di richiamo. È sufficiente una volta nell'arco delle 3 settimane per poi poter ricominciare laddove eravamo arrivati. Senta, dottor Confalonieri, c'è un punto. Lei oggi mi ha detto una cosa sulle vacanze brevi che non mi ha tanto convinto. Insomma, lei ha detto, ma se le vacanze sono brevi è inutile dedicarsi all'attività sportiva. Ma dato che noi vogliamo essere una trasmissione di servizio mi piacerebbe andare un pochino più nel merito, perché buttata lì così non mi dice nulla. Esatto, sì, forse è un po' drastico. Direi se, sull'attività, sulla vacanza tipo 7-15 giorni, magari in villaggio, magari in un posto che offre diverse alternative sportive, il fatto di buttarcisi dentro e fare attività tutti i giorni, magari anche in modo diversificato, può essere divertente, ma dal punto di vista salute è sicuramente rischioso. Non fare nulla non è mai l'ideale, quindi direi se siamo persone che durante l'anno non fanno nulla, facciamo relativamente poco, 30, 45, al massimo 60 minuti se si tratta di un gioco, e al massimo una volta ogni 2-3 giorni, cioè non tutti i giorni. Se invece siamo persone che fanno abitualmente sport, magari saltuariamente 1 o 2 volte alla settimana, allora dimenticatevi del mio consiglio, avete una certa abitudine all'esercizio, buttatevi pure con passione allo sport durante la settimana di vacanza. Dottor Confalonieri, ci sono tantissimi messaggi che vorrei leggerli, però ad esempio uno, Luca d'Ancona, che è arrivato: sono un patito dello sport e non mi fermo né sabato né domenica, sbaglio? In parte avevamo già risposto con la pausa durante la settimana necessaria, ma per chi in qualche modo non ce la fa, cosa deve fare? No, sbaglio sicuramente. Niente, almeno bocciato. Un giorno alla settimana deve essere di riposo assoluto, e almeno un'altra volta deve essere una giornata in cui facciamo un'attività relativamente tranquilla e poco stressante. Allora, Paola da Verona ci scrive: posso solo fare un po' di step per la mattina a casa. Quanti minuti servono per perdere peso e stare in ferma? In forma. In forma, sì. Stare in ferma, perché lo sport sì. Ogni tanto fa male. Ma... No, poteva dire in ferma con il peso. Okay, cioè, non aumenta. Tirata per i capelli. Ho sbagliato. Si è salvata. Dunque, sono necessari almeno 25-30 minuti se lo sforzo è continuativo e di bassa intensità, o se no può alternare 30 secondi di sforzo ad alta intensità e 30 secondi di recupero anche soltanto per 15-18 minuti. Andiamo a Rovigo, ci chiama Enrico. Buongiorno Enrico. Buongiorno a voi, saluti a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie Enrico, vuole fare la domanda al dottor Confalonieri? O ha un consiglio lei da darci? No, io dopo consigli no, preferirei fare una domanda. Facciamola. Allora, io mi considero uno sportivo mancato, nel senso che sono uno a cui piace molto fare sport, però per motivi di lavoro sono spesso in macchina e via tutta la settimana. Sì. E quindi faccio fatica a conciliare le cose, però insomma... Il fine settimana cerco di avere una certa costanza giocando a tennis o facendo qualcosa, no? Ovviamente, insomma, l'obiettivo è anche quello di cercare di perdere un po' di peso, perché stanno sempre seduti. Ci stava girando intorno, Enrico, l'ho visto. Alla fine la prova costume chiama. Allora? No, quindi volevo chiedere se potevate darmi voi, insomma, qualche consiglio sul fatto di poter conciliare magari anche durante la settimana piccole attività, insomma, di... per tenersi in movimento e in forma, non in ferma. Sì. Dottor Confalonieri. Direi sicuramente non abbandoni il tennis durante il weekend, perché è molto meglio un'ora di sport tutte le settimane che nulla. Consiglio molto banale: è uno che viaggia, si abitui tutte le volte a parcheggiare l'auto relativamente lontano dal luogo dell'appuntamento, o se vai in autogrill molto lontano dall'autogrill stesso. Così, per curiosità, si annoti quanti metri fa ogni giorno, soltanto con questo piccolo artificio, e vedrà alla fine dell'anno quanti chilometri ha fatto e potrà calcolare anche quanti benefici vengono da questa pratica. Ovviamente se ha il tempo a disposizione per farla, se no diventa solo stressante. Dottor Confalonieri, una nostra ascoltatrice chiede: perché non parlate mai di equitazione tra gli sport consigliati? Nella fine settimana potrebbe essere una... Tanti lo fanno. È sicuramente uno sport molto bello, che va al di là poi dei benefici fisici, proprio perché dà un benessere globale che nasce anche dalla relazione con il cavallo, e indubbiamente è estremamente efficace in termini di tonificazione soprattutto delle gambe e della schiena. Ha una serie di controindicazioni, soprattutto perché ha patologie delle anche e della schiena sempre, però è uno sport di cui ci ripromettiamo di parlare, perché in effetti l'abbiamo un po' trascurato. Quindi grazie all'invito di Simona, e io ringrazio un'amica che è in linea con noi. Devo dire che proprio oggi, dottor Confalonieri, chiudiamo in bellezza. In linea con noi abbiamo Paola Turci. Ciao Paola! Buongiorno! Che bello averti qua! Senti, grazie. Noi sappiamo già che cosa fai tu questa fine settimana, con il grande concerto Amiche per l'Abruzzo, il 21. Sì. Ma prima di parlare di questo, che cosa fai di solito? Noi oggi parliamo di attività sportiva nel weekend. Tu sei una sportiva della domenica o fai regolarmente attività fisica durante la settimana? Io sono una sportiva di concerti, quindi più concerti faccio, più sport faccio, perché salto sul palco con tacco 12, perciò è un bello sport per me questo ora. È vero. No, però a parte gli scherzi, anche se comunque l'attività dei concerti tiene sempre in moto, anche se ho una chitarra, comunque ci si muove moltissimo. Però al di là di questo sono insomma in debito con lo sport, sono 2 anni che mi sono fermata, però insomma sono per lo sport sempre, praticamente quasi tutti i giorni. Credo che adesso da settembre ricomincerò l'attività sportiva. Senti Paola, invece veniamo a questa tua forma di allenamento, i concerti, un grande concerto, quello del 21 giugno, tante professioniste insieme per aiutare l'Abruzzo. Ne abbiamo avuto tante tue colleghe nel corso della della settimana, ciascuno abbiamo chiesto di fare un invito e un invito a chi ci sta ascoltando e anche a sottolineare l'importanza di questa iniziativa nel caso ci fosse bisogno. Non ce n'è, ma repetita Juvent, come si dice. Certo. Beh, mi ripeterò anch'io però nel dire che questo è un evento unico e probabilmente è irripetibile, cioè incontrare, vedere tante donne cantanti insieme è già qualcosa di, sì, di emozionante e di assolutamente, sì, unico nella storia, proprio nella storia, credo proprio nella storia della musica a livello mondiale. E poi in questo grandissimo gruppo ci sono altri inediti, ulteriori inediti. Per esempio quello a cui parteciperò io è una band inedita, è una band di tre musiciste, cantanti, sì, anzi cantanti, musiciste, che per l'occasione, per la prima volta, si riuniscono per, appunto, per l'Abruzzo e per questo evento che è importantissimo, perché è la nostra il nostro cuore che ci chiama e noi andiamo e voi andate e noi saremo, sì, con voi. Un abbraccio speciale a Paola Turci, grazie per essere stata con noi, amiche, grazie per l'Abruzzo, un appuntamento importante che naturalmente seguirà anche Radio 24. Dottor Confalonieri, noi ci sentiamo venerdì, ci vediamo venerdì, noi invece a domani dopo Questa casa non è un albergo alle ore 12. Vi aspetto, buona giornata.